Ecco, l'orario è consueto, 8.03 minuti, procede il Breakfast Club al mercoledì e voltiamo pagina, già in studio come vi ho anticipato Silvia e Stefano. A tale proposito, ieri Silvia ha rischiato di partecipare all'unica rubrica che non segue, che è il Mood Groove, in circostanza mesta, la scomparsa di Bill Walton e un'attinenza con un lavoro che è stato presentato qualche settimana fa. Intanto però abbiamo un lavoro quest'oggi che ho sbirciato, che anticipa magari i contenuti della rubrica in mostra. Quindi il Breakfast Club è legato da sottili fili, ma quanto mai presenti. Buongiorno Silvia. Buongiorno a te, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sì, in effetti oggi abbiamo un libro che parla anche di un pittore. E che pittore? E che pittore, sì. Si tratta del romanzo La moglie di Hopper, quindi abbiamo già capito chi è il pittore, di Christine Dwyer Hickey, edito da Pagina 1. Ecco, qui io ti devo copiare. Copierò il tuo modo di fare e dirò: questo è un romanzo bellissimo, è già nella cinquina Pellegrino. Tutti anzi, i tempi! anzi, mette un'ipoteca proprio sul Pellegrino. Dunque, quindi avete già capito che non è in premio. Vabbè, però intanto diamo un buon consiglio letterario e ci sarà un libro a sorpresa. Procedi. Poi avremo modo di fare di parlare del libro a sorpresa, senza svelarlo. Dunque, niente, Christine Dwyer Hickey l'abbiamo già presentata qua al Breakfast Club. Sì. Immediatamente prima, fu una delle ultime presentazioni prima della pandemia, con il libro Farley, che già era un romanzo assolutamente notevole, tutto scritto al contrario. Cioè si partiva dalla morte del protagonista e dal modo in cui moriva per tornare indietro fino alla sua infanzia. Di capitolo in capitolo, ogni capitolo scalava di un decennio. L'abbiamo presentato assieme con la protagonista alla confraternita, sì, dell'Uva. L'abbiamo anche presentato insieme alla confraternita dell'Uva con l'autrice, che è una scrittrice irlandese, molto devo dire simpatica, sì, che in Irlanda è molto popolare e anche conosciuta anche in Inghilterra. Da noi purtroppo devo dire che anche Farley non ha avuto il successo che avrebbe meritato. Ecco, speriamo che ce l'abbia questo La moglie di Hopper, perché è veramente un romanzo bellissimo e devo dire anche tradotto molto bene. Dunque, la storia si svolge a Cape Cod, nel New England, quindi al mare, sul mare, nella casa estiva di Hopper e di sua moglie, una coppia estremamente litigiosa, litigiosa a dei livelli che rasentano e oltrepassano la violenza fisica, e dominata dalla enorme frustrazione della donna, che era anche lei pittrice e che è convinta, in qualche modo ha sacrificato il suo possibile successo per aprire la strada al marito. In realtà il libro lascia intuire, e anche la biografia dei due lascia intuire, che la signora Hopper fosse piena di buona volontà, ma non avesse il talento necessario per arrivare. E i due comunque si erano conosciuti a una scuola d'arte, e lei è senza dubbio è a lei che dobbiamo il fatto che Hopper sia stato lanciato. È lei che l'ha aiutato a lanciare i suoi primi acquerelli e quindi gli ha aperto la strada verso il successo, salvo poi, in qualche modo non dico pentirsene, però provare una fortissima invidia nei suoi confronti. Ha avuto successo anche per merito mio, e io che sono così brava sono dietro le quinte. Sì, appunto. E c'è da dire che il rapporto di questa donna con il marito è descritto molto molto bene, perché c'è questa fortissima frustrazione, fortissima invidia, gelosia anche fisica, perché pare che il signor Hopper fosse poi un bel uomo, però quando li vediamo in questo romanzo sono tutte e due più vicine ai 70 che ai 60, quindi le persone che stanno intorno in questo villaggetto del Cape Cod prendono in giro la signora Hopper in qualche modo fra di loro, no? Dicono: ma santo cielo, ma cosa vuoi essere gelosa? Ecco, proprio così, ma cosa vuoi essere gelosa, ma oramai. E niente, tra l'altro una coppia, e però lei ha anche questo fortissimo amore per lui, per cui è preoccupatissima, perché lui in questo sta vivendo una crisi di creatività e non riesce a portare avanti nessun quadro, non riesce a lavorare, e lei lo sprona, fa di tutto perché lo adora in qualche modo. Cioè, è molto bello come è descritto proprio questo rapporto di odio e amore. Sì, contraddittorio. Soprattutto da parte della donna. Lui sembra molto più tranquillo in qualche modo, anche se a tratti con una donna simile vicino perde anche la pazienza. Coppia molto, molto particolare, anche proprio a livello fisico: lui altissimo, lei piccolina. Sì, Hopper è un omone, sì, è alto. E lei invece viene sempre descritta come una donna piccolina. Comunque, il libro non è una biografia, non è un libro biografico. In effetti nell'originale aveva tutt'altro titolo, si intitolava The Narrow Land, la terra stretta, che sarebbe proprio quella fascia di terra dove, e a Cape Cod, dove era la casa di Hopper, la chiamano così gli americani, e infatti racconta piuttosto un episodio, naturalmente questo inventato dalla scrittrice, nella vita di questa coppia, in questa estate al mare di questa coppia. Quindi, se tutto quello che riguarda la coppia è preso dai diari e dalle lettere della signora Hopper, e conseguentemente ha un fondo e più di un fondo di verità, la storia che viene raccontata invece è una storia fittizia. Si immagina che in questa estate in cui i due Hopper si trascinano, direi piuttosto malamente, lui in crisi di creatività, lei in perenne crisi di gelosia e invidia, appare improvvisamente un bambino. Siamo negli anni 40. Fine anni 40, la guerra è finita da pochissimo. Primissimo dopoguerra. Anzi, siamo nel 50, mi pare. Vabbè, appare un bambino che è un orfano di guerra tedesco, che è stato adottato da una famiglia operaia di New York, e viene chiamato a passare le ferie a Cape Cod, nella casa di una ricchissima signora americana, che sarà una vicina di casa, sì, della coppia Hopper. Sì, perché questa signora, che ha perso un figlio in guerra, è al mare con la nuora e il nipotino, e il nipotino non ha nessuno con cui giocare. Questa signora, la signora Kaplan, è una donna che è famosa per la sua beneficenza e che quindi si è occupata molto di questi orfani di guerra che sono stati spediti dalla Germania, bambini ritrovati completamente soli e denutriti all'indomani della fine della guerra, che sono stati spediti dalla Germania per adozione in America. E naturalmente il bambino ha un sacco di traumi, perché ha visto cose che voi umani neanche vi immaginate nella sua brevissima vita, cioè 10 anni. Ed è quindi un bambino un po' riottoso, per di più ha sentito, senza volerlo, che la sua madre adottiva sta aspettando un altro bambino. Quindi è convinto che questa vacanza sia soltanto un modo per allontanarlo, e si è messo in testa che poi non verranno più a riprenderlo. Sì, sarà sostituito. Quindi, anche perché lui in fin dei conti era un sostituito, certo, un sostituto. Lo è già. Sì, perché la coppia aveva perso un bambino e quindi avevano adottato questo, il marito aveva deciso di adottare questo orfano tedesco quasi per colmare il vuoto che la madre provava, che la moglie provava, avendo perso in maniera molto tragica un figlio di un paio d'anni. Bene, questo bambino, per uno strano caso, fa amicizia con la signora Hopper. Dico uno strano caso perché questa era una donna che non faceva amicizia con nessuno, chiaramente. Si sono trovati. Sì, si trovano e nasce questa strana relazione tra una signora che potrebbe essere sua nonna, appunto, e questo bambino che invece non lega per nulla con il bambino di casa. E, le cose... praticamente il nocciolo del romanzo è tutto qui, in questo strano legame tra la signora Hopper e il bimbo. Però questa amicizia permette all'autrice di raccontarci tutto quello che è il côté esterno. Quindi, per esempio, quello che ci sta dietro alla ricchezza, al benessere e anche a questa beneficenza della signora Kaplan, la differenza tra, diciamo così, appunto, fare beneficenza e occuparsi veramente delle persone, se vogliamo dire così. Che cosa c'è dietro la facciata di ricchezza di questa famiglia, di vicini degli Hopper, dove la padrona di casa senza dubbio è molto molto facoltosa, ma ha questo grande dolore di aver perso il figlio. La nuora invece sì, è addolorata, ma vorrebbe ricominciare la vita, vorrebbe divertirsi e quindi trascura il proprio figlio, il nipotino della padrona di casa. Poi c'è un'altra figlia che si chiama Catherine e che è gravemente malata. È molto giovane ed è anche bella e quindi diventa un po' affascina moltissimo tanto il bambino tedesco che si trova a vivere nella stessa casa quanto lo stesso Hopper. E qui si va a scomodare certi fili scoperti che sono abbastanza intuibili ed è un bel intreccio. È un bellissimo intreccio che tra l'altro trova il suo acme, la sua climax in una festa. Qui un po' alla maniera della Mrs. Dalloway di Virginia Woolf c'è una grande festa, la festa per il primo settembre, che è molto sentita in America perché il primo settembre è il loro giorno del lavoro, la festa dei lavoratori, ed è anche la festa della fine dell'estate, tutto sommato. Dopo si chiudono le case al mare, si torna in città con una certa mestizia, però. E quindi c'è questa grandissima festa organizzata nel parco di Villa Kaplan, dove tutti i nodi, se vogliamo, vengono al pettine. E vabbè, e poi non racconto in maniera, di più. Ok, non vuoi raccontare di più, allora non ti faccio la domanda perché mi stava appassionando molto. No, ti posso dire... È anche un bel villato questo, come sì, te lo raccomando caldamente, penso che ti piaccia. Ti posso dire solo una cosa, una caratteristica che rende il libro così bello, diciamo, è che l'autrice ha cercato di scriverlo riproducendo i colori e le luci di Hopper. Quindi... è veramente un valore aggiunto visivo e non solo, ma il libro è diviso dal punto di vista, diciamo così, dei suoni delle parole e della struttura. Lei si rifà a una suite classica, di musica classica, di un musicista chiamato Holtz, Gustav Holtz, la suite dei pianeti, che pare sia molto popolare nei paesi anglosassoni, infatti Holtz è inglese, e che io ho sentito nominare per la prima volta adesso. Però questa suite è composta da 7 movimenti, ognuno dei quali è dedicato a un pianeta. E non a caso il libro è composto da 7 capitoli, e di questi capitoli almeno 4 hanno lo stesso nome dei pianeti della suite. Sì, direi proprio che ci sono tanti riferimenti per definirlo, come l'abbiamo detto tutti i tempi, un villato e da cinquina pellegrino. Quindi ascoltatrici e ascoltatori, avrete la possibilità con la presentazione, l'anticipazione di Silvia, ovviamente, di avere un libro bellissimo, ma il premio sarà un libro a sorpresa. Hai detto che volevi aggiungere qualcosa e lo farai dopo il brano. Sì. Ho letto il titolo, Colors. Ah sì. Lui è Donovan. Sì. Yellow is the color of my true love's here in the morning. when we rise in the morning. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her, that's the time, that's the time I love the best. Che bel prisma tonale e cromatico che dona Donovan, che nonostante sia fuori dai miei generi, a me piace tantissimo, quindi grazie Silvia. Vediamo se una peculiarità che non mi appartiene, cioè la sintesi, riesce a dare due parole sul grandissimo Hopper. Hopper, il grande paesaggio, gli Stati Uniti d'America, i bar, distributori di benzina, tutte quelle... No, non avete capito niente se avete quest'idea di Hopper. Hopper dà la comunicazione che la bellezza è vostra, la bellezza è assolutamente soggettiva. Hopper dà quel senso di portare estetica anche al normale, rendendolo diversamente normale. Che poi i paesaggi protagonisti siano quelli è perché lui era lì, cioè non è che ci siano tanti salti mortali, certo, poi uno può essere affascinato da quell'estetica, ma in maniera più estesa la capacità di Hopper è di rendere assolutamente estetico, bello, emozionante, anche qualcosa che è di quotidianità. E ricordo, siamo nella prima metà del Novecento, Ok, scusa Silvia, questa analisi di critico che ho portato, che non sono peraltro, sono un semplice e ignorantissimo appassionato. Siamo nella prima metà del Novecento, ma arriviamo fino agli anni 60 del Novecento. Cento stesso, lui sì, muore, certo, nel 68, certo, mi pare. Però no, la sua massima espressione mentre andava la canzone Colors, che per inciso era la mia canzone preferita quando avevo 16 anni. Che bello! No, davvero, mi piaceva moltissimo. Io adoravo Donovan e mi piace tuttora. Va bene, mi sono venute in mente due cose. Perché ho messo questa canzone all'inizio? Perché il libro poi alla fine si scopre che è in qualche modo la storia immaginaria del famoso dipinto, più o meno rifatto sulla copertina del libro, Cape Cod Morning. Ah sì, è la moglie quella. No. Nel romanzo si suppone che sia la moglie. Si suppone che sia la moglie. Perché la moglie era la sua, lui quasi... infatti, era la sua modella. Modella. Sì. La storia del romanzo ci racconta che lui l'anno precedente aveva visto una ragazza su un balcone che gli era piaciuta moltissimo. Aveva cominciato a dipingere il balcone, ma poi si era perso la ragazza. Insomma, lui è sempre alla ricerca di questa ragazza, che però non abita più nella casa dove l'ha vista. Dove l'ha vista, e che poi in qualche modo forse ritroverà. Però Cape Cod Morning, da quello che ci dice, da quello che immagina Christine Dwyer, invece è proprio la moglie. vabbè, poi non racconto altro. E niente. Che voglia, quando piace molto, che voglia di raccontarlo tutto. E mentre ascoltavo la canzone, mi è venuto in mente anche che ho pensato di mettere come primo Donovan, perché la canzone comincia, dice "Yellow is the color of the in the morning when we rise", cioè dice quali sono i colori al mattino quando ci svegliamo. E in effetti il colore del cielo, eccetera. E in effetti qui si parla appunto di un dipinto che riproduce i colori del mattino, Cape Cod Morning, mattino di Cape Cod. Colonna sonora perfetta con tutte le attinenze. E anche il brano successivo, abbiamo parlato di aspetti tonali e cromatici, parleremo invece di aspetti di luce nel prossimo brano. Prima però ti chiedevo quell'incipit che hai fatto a proposito del libro. Volevo solo dire che il libro misterioso di questa volta è un libro nuovo, nel senso che... L'hai letto? No, non l'ho letto, confesso che non l'ho letto. Aspettiamo le vostre recensioni. Ecco, proprio quello, aspetterei chi lo vince, se ci raccontasse di che cosa tratta, se gli è piaciuto, altro, se lo leggesse, insomma, ci farebbe una cortesia, perché è un libro che non abbiamo trattato qui e che non c'è più tempo per trattare. Appunto, avrò il numero di telefono, sarà contattato, quando è pronto per la recensione potrà farla in diretta, in diretta telefonica. Certo. Quindi questa è una novità per il Voltiamo Pagina. Ribadisco il 333-180-9494, autrice, titolo, casa editrice, Silvia. Christine Dwyer Hickey, la moglie di Hopper, pagina 1, editore. Quiz. Beh, il quiz non mi è venuto una cosa molto, molto particolare, è molto banale. Cioè, come si chiamava la moglie di Hopper? Oppala! Qual era il suo nome da ragazza e qual era il suo nome di battesimo? Qual era il nome di battesimo? Nome completo, quindi, sì, quindi prima di sposare Hopper. Sì, esattamente. Il nome completo, il nome proprio e il nome prima del matrimonio con Hopper, della consorte. Aspettiamo le vostre risposte, che qui è protagonista, altro che consorte, al 333-180-9494. A proposito di luce, questo disco è anche nella mia immensa raccolta. Quello è mio, sai? L'hai portato. Stranamente perché... quello è mio, non è di Stefano. Pensavo fosse di Stefano anche questo. No, non so invece se... è tuo. Non so se me l'ha lasciato perché non aveva più spazio, però no, è mio. No, è tuo. È proprio mio. È il disco di Beck. Sì. Beck, Morning Face. Siamo ancora al mattino. A proposito al mattino. E chiudiamo con una passeggiata di luce, Walking Light. A tra poco, aspettiamo le vostre risposte sulla consorte di Hopper. A tra poco. Waking light, your profile in shadow. Raise yourself to the morning glow. Night is gone, long way turning. You've waited long enough to know. When the memory leaves you, mother on a sandy lawn as a sophomore with reggaeton. Snobettini, ma bravi, è una selezione di Stefano per questo indie pop così definito. Loro sono i Vampire Weekend. Beh, il brano è oltre che attinente. Cape Cod, quassa, quassa, Cape Cod, appunto. Rifacciamo al nome della località nel libro presentato da Silvia. Ritorna alla vittoria il nostro campione. In effetti era da un po' che non portava a casa un libro presentato al volto. Voltiamo pagina. Josephine Nivison mette il nome proprio completo, quindi direi che è inequivocabile la vittoria di Andrea. Grazie. Ricordiamo che i libri possono essere ritirati alla libreria Ubic, che collabora direttamente con il Breakfast Club Voltiamo Pagina. Libreria Ubic, via Ernerio 27 a Bologna. So natural, Peter Gabriel. Il titolo precedente ho aggiunto una L perché non ci vedo tanto bene con noi. Waking, quindi il risveglio per il brano di Beck che ha portato in playlist Silvia Albertazzi e insieme a Stefano Calanchi, notaio, poi tecnico anche video per il video che avrete possibilità di recuperare anche con quello della settimana scorsa sul sito www.radiocittafugico.it. Allora presentiamo un libro nuovo, esce nel 1886. Libro nuovo perché è per la prima volta in Italia. Allora, aggiungo che ai tempi è stata addirittura arrestata la protagonista scrittrice Marguerite Amery. Muore nel 1953, la sua nascita è il 1860. Il suo, mi pare, secondo romanzo ha un titolo molto semplice, Messie Venus, questo signor Afrodite. Continuiamo con determinati contenuti, che possiamo definirli qui, se vogliamo, però è una letteratura che certamente dà motivo, oltre che di bellezza nella narrazione, anche nella capacità di una scrittura oltre che moderna. Intanto i protagonisti, la protagonista del lavoro che ha riportato questa scrittrice che come nome d'arte aveva Rachilde, è una figura e ho fatto un nome che magari ti ha evocato qualcosa. Sì, perché finché tu hai detto il nome esatto, diciamo, di battesimo, sì, della donna, non mi, della scrittrice, non mi diceva assolutamente nulla. Rachilde invece è, è un nome che ha avuto un suo peso, soprattutto un suo successo di scandalo, diciamo. Grande scandalo, sì. Un critico dirà, è un libro scandaloso. Prendetelo però e mettetelo in una sezione della biblioteca che chiamerete Inferno. Io l'ho trovato meraviglioso. Comunque la mia sezione a tale tema nella mia biblioteca mi sono accorto che è ricchissima. Quindi bene, dopo aver presentato il libro di Ezio Sinigaglia la volta scorsa, questa storia d'amore tra un grande direttore, dirigente di aziende e il fattorino, adesso andiamo indietro nel tempo e troviamo invece una relazione molto forte, molto intensa, descritta con con una classe incredibile, diranno di lei addirittura Oscar Wilde è stato, non dico cresciuto con Rashid, ma indubbiamente le attinenze. Non sarebbe stato Oscar Wilde se non avesse letto questa scrittrice. Questa scrittrice che parla di una storia d'amore tra una figura di una giovane ricca aristocratica, Raoul de Verande, e Jacques Silvert, un povero fiorista, ma ha delle caratteristiche questo plebeo, così come lo definisce lei stessa. È un ragazzo bellissimo e anche tratti assolutamente dolci, a tratti efebici, femminili, no? Ricorda molto una ragazzina e lei se ne innamora perdutamente. Ok, ci sta. Qual è la particolarità di tutto ciò? Che il rapporto è un'inversione di ruoli totale. Cioè la protagonista, Raoul, lo ama come se fosse lei stessa un uomo e viceversa, lui ama questa figura come se fosse lui stesso una donna. Ed è veramente una continua realtà che anche ai più progressisti, ai più libertini, senza avere parole così triviali, anzi assolutamente un racconto lungo, possiamo definirlo di grande classe, però ha veramente una stesura di storia d'amore assolutamente intensa, a parti completamente invertite. All'interno di tutto ciò, come vi ho detto, troveremo altri personaggi che saranno così giudici, saranno inquisitori di tutto ciò. Beh, vi vado a descrivere alcuni di questi. Ad esempio posso portare la bigotta vergine canonichessa Ermengarde, che poi così vergine non era, è l'ex ufficiale ussaro, che così mascolino, no, così virile, alla fine nascondeva la sua bisessualità. Ecco, per dire poi come l'inquisitore è sempre quello che combatte, quello che non vuole evidenziare. Il libro è stato condannato, lei addirittura è stata fermata, condannata a 2 anni di reclusione con l'accusa di pornografia. Beh, di pornografia non ve ne è una riga, se vogliamo per così definirla. Lei è stata criticata tantissimo dalle femministe ed è stata criticata tantissimo ovviamente dai benpensanti. Io penso che sia un lavoro di cui c'è tanto, tanto bisogno in questo momento ed è stato scritto nella seconda metà dell'Ottocento. Criticata dalle femministe perché? Perché lei, insomma, non voleva una situazione della donna che fosse unicamente, tra virgolette, emancipata, però sempre con degli aspetti, se vogliamo, con una banalizzazione, con qualcosa che non portasse poi a uno sdoganare, soprattutto in ambito carnale, in ambito di vita sentimentale, quella che potesse essere invece una libertà totale, come appunto lei proclama. Tanto più che questa storia d'amore intensissima anche nella situazione di coppia, pensate, lei è una ricca aristocratica che va a prendere questo ragazzo di cui si innamora perdutamente e lo amerà a modo suo e sarà corrisposta a modo del ragazzo a parti di genere completamente invertite. E beh, di solito all'epoca non era il ricco aristocratico, no, che si innamorava della domestica, della giovane a servizio. Ecco, qui le parti, anche nel caso di società dell'epoca, e magari non solo, sono completamente, completamente opposte. Monsieur Venus è stato, come vi ho detto, censurato, ha rivisto la luce qualche anno dopo, arriva per la prima volta in Italia da una casa editrice che si chiama WOM, penso si pronunci BOM, non so se la conosci, Silvia. Ma ho visto dalla copertina. Copertina stupenda. Sì, mi sembra, forse qualche anno fa avevo presentato un libro anch'io di mi ricordo la copertina con questo tondo. Certo, che porta all'interno come sì, un gioco nel sì, vedere, cioè, quello che ci sta, infatti, all'interno. Copertina bellissima. Mi ricordo che anni fa ho avuto per le mani un libro appunto con questo stesso gioco, con questo oblò. Oblò. il termine quanto sì. mai azzeccato. Anch'io ho dato una colonna sonora a questa storia d'amore. Bellissimo, anche se sottovalutato, di un grandissimo autore. Per avere Rashild, l'autrice del lavoro che ho appena presentato, per la prima volta in Italia, è stato censurato, arriva in biblioteca, magari vostra, Messier Venus, e questo Messier Afrodite, l'edizione Evom. Beh, ve la faccio ascoltare ancora per un po', anche se il quiz è molto semplice. Chi state ascoltando è il titolo di questa splendida canzone, autore e titolo del brano che sta andando ora su Radio Città Fujiko, e per voi il secondo romanzo di Rashild. Thank you. David Bowie, Mother Love. Luca, grazie Luca, non sei arrivato tra i primi, però grazie per aver partecipato al nostro contest. Firmatevi per piacere, un'altra risposta esatta, comunque un po' fuori tempo. Troviamo invece chi si è avvicinato e chi è stato più veloce. E troviamo, ritorna un grande campione per quanto riguarda il quiz e il lavoro di Rashild Messier Venus per VOM Edizioni, Dino dalla Bolognina. Complimenti Dino e grazie. Ringrazio anche Paola, che anche lei campionessa per quanto riguarda la risposta ai quiz del Voltiamo Pagina, e noi siamo giunti alla conclusione della puntata odierna. Quindi hai qualche appuntamento da sottolineare per weekend o fine settimana? No, no, anche perché sono in partenza. Ah, e quindi come faremo senza di te? Abbiamo già il sostituto, dai. E che sostituto? Speriamo che sia all'altezza. Non mettiamo ansia. No, l'ho detto, anzi, proprio, poi mi sono pentita di averlo detto. Davvero. Ci sta. Perché? Noi salutiamo Lorenzo Paur, che è in redazione, e magari avremo modo di portare il Voltiamo Pagina anche con una nuova formazione per qualche settimana. Quanto starai via, Silvia? Tre martedì. Tre mercoledì. Ah, scusami, tre se mercoledì. No, se vuoi venire al Move to Groove, guarda, sei sempre ben accetta. No. Mettiamo l'ultimo brano per i saluti. Ha detto, di questo brano sono belle tutte. Chi sono loro? L'ha detto Stefano. I Pavement. Okay. I Pavement. Per la precisione. I Pavement. Noi vi diamo appuntamento per quanto riguarda il Breakfast Club a domani con la rubrica in mostra, puntuali alle ore 7. Silvia, io vi auguro un buon viaggio. Grazie, e poi ci sentiamo. Restiamo comunque, comunque, sì, in, restiamo contatto, comunque in contatto. Sì, certo. Tra poco è di Edipeo Enciclopedico a seguire Liberi Dentro, rassegna stampa. Il mercoledì col grande rock live di Nevio. I Pavement per voi, grazie per l'attenzione, per aver giocato con il Voltiamo Pagina. Un caro saluto da Silvia Albertazzi e da William Piana. Ah, ok, bene. Ci ho dovuto pensare. Silvia, buon viaggio. Grazie.